Allora, grazie Raffaele Romanelli e diamo subito inizio al dibattito. Tempo di respirare. Volevo dire una cosa a Gozzi, se mi ricordo, però, perché ovviamente sono tutti un po' stanchi. Cioè, io, Gustavo Gozzi, ho capito, cioè ho colto nella tua bellissima relazione un punto centrale importante in cui tu intendevi a dire che la proposta che fa, mi pare, forse ti riferivi a Zilzheimer, quello che ho detto lì, la lettura che fa Zilzheimer è una lettura giusta della situazione della Repubblica di Weimar, però è una lettura che non corrisponde, che non è condivisa dalla dottrina dominante, perché la teoria dominante va per un'altra strada. Ecco, io è questo punto che vorrei che tu non tanto chiarissi, ma cioè che ho capito cosa vuol dire, però è un problema per me storiografico, insomma, cioè è molto interessante. Come si fa a tenere insieme questi due livelli di discorso? Cioè, da una parte c'è una dottrina dominante, e questa dottrina dominante produce effetti, insomma, cioè è un dato politico che fa storia in quel momento lì, però dall'altra parte tu come interprete dici sì, quella lì è la dottrina dominante, però non cambia niente, aveva ragione quell'altro che invece era completamente in minoranza. Ecco, come questo punto che peso ha nella tua ricostruzione? Questo mi interessava un po' mettere a fuoco. No, una breve situazione, qualche domanda sull'intervento di Gustavo. Ora, nell'analisi molto bella, serrata, appassionante che Gustavo ci ha dato, ci ha offerto dell'interpretazione della produzione dell'ottica che interpreta la produzione di Weimar, mi sembra che venga confermata una caratteristica strutturale di ogni testo, e quindi di testo prescrittivo e anche di un testo prescrittivo che è la costruzione, cioè che il testo non funziona da solo, non cammina sulle sue gambe, acquista il significato che volta a volta la dottrina che lo interpreta e attribuisce. Ora, la prima domanda, forse ingenua e schematica, è questa. Nell'interpretazione della Costituzione di Weimar è possibile individuare una prevalente direzione di senso? In altri termini, il tono prevalente nella interpretazione della dottrina che interpreta la Costituzione di Weimar qual è? È quello di leggere la Costituzione attraverso la tradizione, o piuttosto quello di usare la Costituzione per interrompere la tradizione e preparare qualche strategia alternativa? Seconda domanda, dottrina che interpreta la dottrina di Weimar perviene a individuare i diritti sociali in qualche modo, almeno come diritti del soggetto, o l'insieme dei diritti sociali resta comunque una serie di principi per il legislatore? E terza domanda, il conflitto fra valori e diritti a cui accennava da ultimo Gustavo è specifico della Costituzione di Weimar o è un elemento strutturale degli odierni stati costituzionali? E se vi era per l'ultimo ipotesi, come mi sembrerebbe, è possibile pensare ad una composizione del conflitto che non sia puramente formale e procedurale, per intenderci cassiniana? O piuttosto lo scenario attuale di progressiva fantomazione di gruppi, ideologie, di interessi, di linee, di rende problematica addirittura la stessa ipotesi della posizione formale e procedurale. Per Raffaele Romanelli, come si coniuga il modello che tu ci hai così brillantemente spiegato con un altro problema che pure tu hai studiato, cioè il problema dell'accesso al voto? per le donne, per esempio, in mente di aver trovato per nei miei studi relativamente all'allargamento del suffragio amministrativo, no? Una forte accentuazione della possibilità della donna di essere proprietaria come un elemento che dovrebbe spingere al suo accesso al voto amministrativo più che al voto politico. Ecco, allora la mia richiesta era questo modello che tu hai espresso di familismo e paternalismo, che è fortemente sentito, e tu dall'inizio alla fine del tuo intervento hai sottolineato questo elemento, si coniuga in qualche maniera, si coniuga altrettanto fortemente nell'argomentazione per o contro l'accesso al voto nella doppia dimensione dell'elettorato politico e dell'elettorato amministrativo, e se sì, come? Marco Luigi. Domanda da Iasalina Pieretti. Mi chiedevo se, oltre che di democrazia, un concetto generale astratto, le fonti che hai guardato e che hai esposto parlano mai anche di democratici come soggetto politico concreto. Spiego perché domando. Può essere che sia una questione di disinformazione, ma mi sembra che, mentre sono un soggetto politico che si chiama con questo nome per tutta la prima metà dell'Ottocento in Italia, i giacobini si chiamano democratici, Giacobini è un epiteto dispregiativo che ricevono da parte degli avversari, e poi c'è tutta la tradizione di democratici prima dell'unificazione nazionale. Dopo l'unificazione il concetto di democratici tende un po' a sfrangiarsi in sottodivisioni, possono essere i repubblicani piuttosto che i radicali, in qualche caso così via, ma mi pare che ci sia un'assenza di individuazione di una forza politica concreta quando teorici di cui hai descritto le analisi parlano di democrazia. E poi per converso, nel campo, diciamo, di correlazioni logiche nelle quali si tratta della democrazia, viene esplicitamente adoperato come termine complementare o viceversa contrapposto invece liberalismo, cioè viene istituita una qualche forma di antitesi logica o di complementarità tra le due forme? No, volevo chiedere a Gustavo se lui ha avuto presente in questa ricostruzione un versante di questo problema, cioè diritti fondamentali, ecco, se i diritti fondamentali siano la loro essenza soprattutto diritti di libertà, cioè la linea che dicevi Helene Kanschitz, cioè Freiheitsrechte, no? O se siano principalmente questi diritti fondamentali scelte di valore, quindi l'altra linea, obiettive Grundsatznormen, no? Come dice oggi Ferber. Allora, questo è anche il dibattito oggi nella interpretazione della Costituzione. E per me è stato molto interessante sapere, non lo sapevo così chiaramente, che è iniziato già allora, no? In modo così netto con due schieramenti. Allora, oggi ha un significato che ora dirò brevemente. Ti chiederei se aveva già questo significato allora. Allora, oggi chi dice nella dottrina italiana e anche tedesca che i diritti fondamentali a loro essenza sono Freiheitsrechte, normalmente difende le prerogative del Parlamento. Cioè, dire quello significa può esistere una pluralità di indirizzi politici, deve esistere una competizione per l'indirizzo politico, no? Perché la Costituzione serve solo a dare più chance a tutti gli attori esistenti, no? E allora continua a essere molto forte il ruolo della politica, del Parlamento, dei partiti, no? A noi può sembrare che non torni con altri, ma è così oggi. Se invece le libertà fondamentali sono obiettive, Grundsatznormen, se sono quello, allora è evidente che c'è un indirizzo fondamentale che tutti debbono cooperare e attuare. Allora anche il Parlamento è uno dei poteri che sta sotto la Costituzione, e la legge è qualcosa che ha un ambito di discrezionalità sotto la Costituzione, no? Ora, allora certamente non c'era l'idea che c'è oggi, ma oggi certamente questa dottrina delle obiettive Grundsatznormen serve per mettere in primo piano il ruolo delle corti e della giurisprudenza costituzionale piuttosto che quello del Parlamento, no? Perché se c'è un indirizzo fondamentale più che una competizione tra diversi indirizzi, allora c'è un luogo solo dove lo si interpreta, no? Ed è la corte costituzionale. Questo è assolutamente trasparente oggi, secondo me, in Germania e in Italia. Vorrei capire se c'era già un sottofondo di questo genere nel dibattito sulla Costituzione di Weimar. Erst zu Maurizio. Ich glaube nicht, dass man immer sagen kann, dass die Betonung der Abwehrfunktion der Grundrechte die Funktion hat, das Parlament zu stärken. Es gibt viele Gegenbeispiele. Die Benutzung der Grundrechte als Individualrechte wird etwa beim Eigentum ganz stark antiparlamentarisch eingesetzt. Zur Verteidigung von Individualrechten gegen jetzt gegen den Gesetzgeber, der in Privatrechte eingreifen will. Das ist eine Front der bürgerlichen Gesellschaft gegen das sozial orientierte Parlament. Wir haben das zur Zeit der Sozialdemokratie in der Bundesrepublik sehr intensiv erlebt. Und die zweite Bemerkung, der Höhepunkt der Debatte, ob die Grundrechte nun individuelle Abwehrrechte sind oder der Ausdruck einer Wertordnung, der Höhepunkt dieser Debatte ist überschritten. Das ist schon fast ein historisches Thema der 50er und der 60er Jahre. Heute ist das nicht mehr so interessant. Ich glaube, es ist eine Distanzierung von den philosophischen Grundlagen, die in den 50er Jahren noch sehr herrschend war. Wert, Philosophie, das ist heute nicht mehr so aktuell. Und die Bemerkung zu Gustavo Cozzi bezieht sich auf den Aufsatz von Huber. Sie haben ihn zitiert und haben gesagt, molto vicino disment. Und da habe ich Zweifel. Huber ist ein anderer Typus, philosophisch anders, er ist Hegelianer geblieben sein ganzes Leben lang. Und er ist Anti-Individualist und auch Antidemokrat, jedenfalls in der Zeit, in der er damals geschrieben hat. Bei Smend ist der philosophische Hintergrund anders und ob Smend Demokrat war, möchte ich nicht genau entscheiden. Das ist immer schwierig bei Smend, man weiß nie genau, was er meint. Ganz sicher richtig ist, dass seine Integrationslehre auch demokratisch interpretiert werden kann. Ob sie 1927 demokratisch gemeint war, ist mir sehr zweifelhaft. Ich tendiere eher dazu, die Integrationslehre anti-weimarisch zu lesen. Aber das ist eine Interpretationsfrage. Smend selbst hat gesagt, er wollte die Weimarer Demokratie damit retten. Andere Interpreten haben es genau anders gelesen. Ich habe mit Smend über diesen Punkt sogar einmal persönlich diskutiert. Wir sind auch zu keiner Klarheit gekommen. Das ist mich nicht wundern. Ich war auch sehr klein und unerfahren damals. L'ultima domanda. La penultima. Abbiamo sempre... cioè, possiamo arrivare solo alle 7:30, aspetta purtroppo una pausa. Solo un piccolo appunto, nel senso di Michele Stolois, almeno nella Spagna degli anni 30 Rudolf Smend è stato interpretato nel senso democratico. Il primo articolo della Costituzione Repubblicana del 31 definisce la Spagna come uno Stato integrale. Stato integrale che vuol dire la ricerca... Und zwar zur sozialen Frage, zu dem Fragenkreis des Konnexes zwischen rechtsstaatlicher Freiheit und, wenn man so will, sozialer Freiheit. Im Grundgesetz wo ja der Rechtsstaat festgeschrieben ist, heißt es ausdrücklich im Deutschen derzeit geltend, der soziale Rechtsstaat. Inwieweit ist, das ist immer die Frage, der Rechtsstaat dieser sozialen Aufgabe gewachsen? Und in diesem Zusammenhang wollte ich nur auf die ersten Anstöße hinweisen, die von Lorenz von Stein 1850 ausging. Er hat die Freiheit im Rechtsstaat realisiert gesehen und nicht die sogenannte soziale Frage und Freiheit. Die wollte er extra gelöst wissen durch ein neues Verhältnis zwischen Arbeit und Kapital. Gustav. Dunque, le domande che sono state poste, che mi sono state poste, riguardano proprio gli interrogativi che io stesso alla fine lascio a te, insomma, perché il tema è mutamento di significato e di diritti fondamentali, ma al tempo stesso riflessione sul concetto di democrazia. È un tema che considero per me tuttora in grossa elaborazione. Allora, provo a rispondere punto per punto. Credo che sia Piero Schiera, dunque, secondo Beckenferde, la dottrina dominante, quindi appunto presso i giuspubblicisti, ci sono periodici incontri, tra l'altro nel corso degli anni 20, la seconda metà degli anni 20, su temi specifici, per esempio sul problema dell'uguaglianza, sul tema dei diritti fondamentali, eccetera, e emerge insomma questa una teoria dominante che Beckenferde riconosce sostanzialmente nel commentario di Anschutz alla Costituzione Svalda. Ora, questo commentario ripropone sostanzialmente la dottrina liberale dei diritti di libertà, quindi in sostanza. E quindi un concetto di Costituzione come garanzia dei diritti e soprattutto concezione individualistica dei diritti. Con diversa fondazione, perché Anschutz rimane sostanzialmente un liberale, non così Schmitt, che è legato certamente al pensiero conservatore, però approva lo stesso una visione individualistica. Individualista rimane, tutto sommato, Kaufmann, Nagliaschi, cioè tutta la dottrina Stirsson, sostanzialmente sono su questa linea. La domanda mia era questa: questa dottrina ha corrisposto, ha interpretato adeguatamente il mutamento di significato dei diritti fondamentali, dico non dal punto di vista dottrinale, quindi dal punto di vista soggettivo, ma in un diverso contesto costituzionale. Cioè ritengo che la dottrina dei diritti pubblici soggettivi sia la dottrina dello Stato di diritto. Che non corrisponde. Allora, infatti, si assiste ad una curiosissima giustapposizione, proprio una linea di confine, per cui autori da una parte fanno quasi come un'esercitazione accademica, penso per esempio a un autore come Thoma, che riproduce tutta la sistematica di Engel e poi scrive gli altri saggi in cui invece affronta il problema dell'uguaglianza e dice no, ci deve essere una cittadinanza omogenea, quindi rielabora il concetto di cittadinanza, di più come appartenenza allo Stato, di più come diritto pubblico soggettivo, ma tocca appunto il tema dei diritti sociali, reinterpretandoli. Quindi c'è una dottrina dominante che è la continuazione della poderosa elaborazione ottenaria dell'Ottocento, che però non corrisponde, secondo me, alla realtà costituzionale materiale della democrazia degli anni venti. Ecco, allora è proprio questo il problema. La Costituzione è un testo formale che rispondo appunto a Pietro Costa, che come si vede da queste considerazioni si presta ad una pluralità di interpretazioni. Non c'è l'interpretazione di cioè non c'è la dottrina migliore dell'altra, infatti non direi la dottrina più giusta, non c'è la dottrina giusta o non giusta. Si scontrano, si giustappongono, si confrontano diverse letture dottrinarie, diverse interpretazioni di questo testo costituzionale. Perché si presta a questa pluralità di interpretazioni? Ecco il punto importante. Leibniz traccia una storia dei diritti fondamentali, quindi risale ai classici lavori di Hennig, fondamento religioso dei diritti, il processo di secolarizzazione, poi arriva ad analizzare la Costituzione, cioè le Costituzioni del 48, del 48, 49, 50, e dice aveva una chiara fondazione borghese, così neanche estrae, non c'è dubbio su questo, è vero. Se poi leggiamo la fase costituzionale successiva, il periodo di Stamatiano, i diritti non erano sanciti costituzionalmente, ma sono fondati con norme di legge. È proprio la forma dello Stato di diritto, dove la Costituzione è un testo che rimane così come un catechismo, che però trova forma normativa attraverso la legge. È la legge che, non, come dire, non le norme statutarie, è la legge che dà forma ai diritti. Weimar no. Weimar non ha una chiara univoca, non ha un chiaro univoco principio al fondamento dei diritti fondamentali. Ecco il problema. E allora è qui la svolta, se dovessi dire dov'è la svolta tra Stato di diritto e Stato costituzionale, la metterei proprio qui. L'assenza di un'unicità di principi interpretativi al fondamento della Costituzione, soprattutto in questa seconda parte. Questo è un punto che mi sembra adeguatamente chiaro. E allora il problema diventa diritti fondamentali come Freiheitsrechte o come Grundsatznormen. Questo è un punto centrale. È vero, Freiheitsrechte in qualche modo alludono, per le ragioni che dicevo prima, alla centralità della legge, al ruolo del legislatore, al primato del legislativo rispetto allo stesso testo statutario, rispetto allo stesso testo costituzionale. Non così se li si interpreta invece come Grundsatznorme. Allora in questo caso si dice no, ci sono dei valori, ma la domanda è quali valori? Ma i valori in questo caso sono conflittuali, non ci sono valori univoci, il problema è questo. Allora ecco perché diventa problematica, sono d'accordo, che il dibattito e fare cose di tenere. C'è un possibile governo dei giudici, è vero, il dibattito degli anni 50-60 in Germania, che infatti oggi è in qualche modo superato, sono d'accordissimo su questo. Infatti, allora io non credo che si possa accettare l'idea di questi diritti fondamentali come Grundsatznorme, come intendevano invece, come intendeva per esempio Smend, ecco la continuità, perché Fede dice, gli unici autori che durante l'epoca di Weimar avendo inteso i diritti fondamentali della Grundsatznorme erano stati Smend e Huber, ma la loro dottrina è rimasta minoritaria. Perché io ho qualche perdute, dico solo che anni fa io interpretai Smend, e ben consapevole della pluralità di interpretazioni fondate che sono state date di Smend. Emke, Ost Emke, per esempio, lo dice, presenta proprio come un teorico della democrazia. Beckenfelde, nella sua classificazione dei diritti, dice la teoria democratico funzionale è stata elaborata da Smend. Ecco. Però è vero, non sapevo della interpretazione spagnola. Contemporaneamente c'è stata l'interpretazione di Smend come un teorico anche, come dire, vicino a posizione, come dire, integrazione come dottrina del fascismo. È stato anche così interpretato, quindi c'è stata un'ambiguità rispetto alla posizione di questo autore. È vero che però nelle dichiarazioni che lui ha fatto ha sempre dichiarato io mi distingo dalle tesi di Carl Schmitt, la sua, dice, dottrina della Costituzione è un insieme di ponti di comando, cioè di una struttura autoritaria, mentre io difendo una concezione personalistica. Ecco, ma quale personalismo? Ecco il punto. Se guardiamo la sua concezione di democrazia, lui scrive nel 1933 un saggio intitolato Protestantismo su un democratismo, dove al fondamento della democrazia ci sono i valori della tradizione protestante tedesca. Mi chiedo, può essere questo un fondamento per una democrazia? Cioè dire, possono essere questi i soli valori a fondamento della democrazia? La democrazia invece si alimenta di una pluralità di valori. Ecco allora la necessità di accettare, forse vorrei dire, l'idea di Costituzione come rame normi, più che come grundordine, che rinvia non tanto all'interpretazione di questo problema del giudice, ma ancora una volta al conflitto sociale. Il problema è una cultura della democrazia. Weimar, se dovessimo dire, qui siamo sul terreno sociologico, struggente, non ha avuto una cultura della democrazia. È stata una democrazia che non ha avuto questa capacità e tempo di apprendere questa cultura della democrazia, un terreno struggente, in sostanza. Però è l'unico terreno che intravedo per, e soprattutto escludo che i valori nazionali possano essere il fondamento esclusivo e univoco della democrazia. Però è, per me, torno a dire, è un punto molto aperto. Bene. Ma dunque, in modo molto breve, per quanto riguarda il periodo tra 7 e 800, ovviamente abbiamo visto le fonti, ho visto a livello storiografico, il termine democratico è usato molto più di quanto non sia il termine democrazia, viene usato soprattutto come contrapposizione con l'aristocratico, quindi come una connotazione negativa, non tanto come affermazione di principi in sé. L'altra cosa che mi chiedevi sulle fonti c'era anche diciamo, l'attenzione dei partiti democratici. Ecco, l'unica rivista che prende in esame, che usa vivamente il termine democrazia e partiti democratici è Critica Sociale, e intende partiti democratici genericamente come gruppi dell'estrema, senza nessun tipo di definizione, quindi senza un rimando invece alla. Al termine di democrazia in sé. L'ultima domanda che mi hai fatto se il liberalismo viene visto come complemento di democrazia, assolutamente no. Come democrazia come complemento di liberalismo, assolutamente no. Il disegno liberale si può realizzare senza la democrazia. Questo per uno degli autori che io ho visto nel dibattito sul liberalismo. Quando ovviamente si arriva nel secondo, dopo la prima guerra mondiale, il problema è diverso perché non è più il regime liberale che si deve realizzare, ma è uno stato totalmente nuovo, tanto che qui si parla costantemente anche di costituente, e allora lì c'è un'occasione che diventa un tema fondante. Raffaele Romanetti. Sì, Raffaele Romanetti mi ha chiesto in che modo il problema di cui ho parlato è in relazione con il problema dell'accesso della donna, delle donne al voto. Nel modello di rappresentanza non democratico francese le donne avevano il voto in un modello più ceduale, multiforme, meno rivoluzionario. Le donne avevano il voto, alcune donne. Nella prima Dreyfus-Warre, per esempio, nella prima livello le grandi proprietarie avevano il voto, nella prima curia del sistema austriaco le grandi proprietarie avevano il voto, in Inghilterra quale voto? Siamo un sistema non paritario, alcuni voti qua e là, ben inteso, non sono mai voti diretti, le donne non sono nell'urna, per esempio, delegano, e qui c'è tutta la tematica della rappresentazione della scena. Il caso italiano, siccome il modello italiano è molto più avanzato perché arriva tardi, ma è di diretta derivazione del modello francese, il modello democratico, il citoyen che ha il voto, evidentemente non può, diciamo così, accettare, l'accetta meno, di qui il discorso sui convocati, nella vecchia Austria le donne avevano il voto, le donne avevano il voto ovviamente per modo di dire, si trattava di convocati, la grande proprietà non andava, eccetera. Però, come dire, il modello democratico non è accettabile, perché sì, ovviamente sul scenario, sul piano europeo, il cittadino è maschio. Il dibattito non si pone nella legge elettorale politica, si pone, come sai, nella legge amministrativa, viene proposta anche dal governo un emendamento che dà il voto alle donne, e c'è un dibattito parlamentare, poi viene respinto e non viene concesso. Certamente le argomentazioni sono interessanti e testimoniano della, diciamo così, se posso dire, sul piano come dire antropologico, della latente paura della donna, nel senso che vedere autorevoli giuristi che dicono e se le donne fossero elette avremmo lo strino in più in Parlamento, o addirittura con il Cefalo, ma questa è un'argomentazione che ci interessa di più, dice dare il voto alla donna sarebbe dare il voto all'unico, perché la donna vota come marito, anzi la donna vota come amante, cioè parte per una tangente di misoginia che nulla ha a che vedere col contesto di cui sta parlando. Questo è interessante, ma a parte questa cosa qui, è il discorso che il voto alla donna e dare il voto all'unico è un forte fondamento teorico, perché effettivamente su scena europea il cittadino attivo è maschio, come non è bambino, così non è donna, non è cavallo, eccetera. Allora, in questo senso, come si coniuga si collega e entra nel discorso che ho fatto io, in quanto il modello individualistico liberale come modello forte di riferimento progressivo esclude più che invece i sistemi più tradizionali di tipo ceguale, esclude chiaramente la donna. Naturalmente ci sarebbe da soffermarsi brevemente su una cosa, anche qui ci sono le contraddizioni. L'istituto della delega di censo, per esempio, è un istituto previsto dalla legge che denota un disagio della legge, perché naturalmente la donna vedova titolare del matrimonio non deve capire se dovesse avere un riferimento, indica, dice la legge, chi vota, e guardate, ci sono elementi, ma sostanzialmente il quadro è quello.